versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon 19 di giugno, venerdì, sono le 16:31 primi e 39 secondi qui dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo della versione di Oscar @radio24.it per proporre temi, trasmissioni e interventi da parte vostra per raccontare storie. Oggi invece, vi faccio subito la domanda per vedere se volete intervenire nell'800240024 con una telefonata oppure 349-238-6666 per gli sms, è una trasmissione dedicata a un punto di approfondimento come succede ogni tanto. E approfittando del fatto che mi sono imbattuto in uno studio molto interessante su uno dei temi della bassa competitività italiana, mi sono detto è l'occasione con i nostri ascoltatori per fare una riflessione insieme. E la domanda che vi faccio è: secondo voi perché la produttività italiana è così bassa in termini comparati da molti anni a questa parte? Perché continuiamo a perdere colpi da metà degli anni 90? Cioè sono 20 anni, lo vedremo meglio tra poco con qualche cifra alla mano, che noi non reggiamo rispetto agli aumenti di produttività degli altri paesi avanzati. Ecco, doveste dire secondo voi da che cosa dipende? Che cosa direste, visto che ciascuno è ovviamente convinto di essere invece molto produttivo e che il problema sono gli altri? Sono fattori di contesto, sono le politiche pubbliche e la sottocapitalizzazione delle imprese private italiane, che è un punto di debolezza mica da ridere, e la bassa percentuale di tecnologie della comunicazione in generale sia del settore pubblico che privato italiano? E perché preferiamo avere molti occupati rispetto a ciò che produciamo, a quel meno che abbiamo prodotto nella crisi, e quindi inevitabilmente avendo più occupati di quelli necessari la produttività scende, ma è meglio avere più occupati a bassa produttività che averne meno a più elevata produttività, anche se naturalmente poi il costo è più elevato, come è evidente? Beh, io sono curioso di sapere come la pensate. Perché? Perché in realtà questo punto del ritardo italiano ventennale è un punto sul quale né la politica né gli economisti hanno le idee chiare. Cioè tutti sono d'accordo, vedendo i dati, adesso me ne ricordo due, che questo è uno dei problemi gravi dell'Italia, cioè a prescindere dalla finanza pubblica, il debito pubblico, l'elevata pressione fiscale, l'amministrazione pubblica che non funziona, la giustizia che è lenta, l'evasione fiscale, l'illegalità. Però oltre a tutto questo qui c'è un dato evidente. Qual è questo dato evidente? È che se noi vediamo nel secondo dopoguerra, noi abbiamo avuto dei decenni in cui la nostra produttività rispetto a quella dei paesi avanzati, noi eravamo, come si dice, late comer, eravamo arrivati tardi allo sviluppo industriale e anche a quello post-industriale dopo, però noi recuperavamo e lo recuperavamo in maniera molto significativa, fatto pari a 100 il prodotto per ora lavorata degli Stati Uniti. Nel 1970 noi eravamo a 67,4 rispetto a 100 americani, nel 1980 eravamo a 76,2, nel 1995 li avevamo quasi acchiappati gli Stati Uniti, stavamo a 92,1, nel 2013 siamo tornati indietro a 75,7, cioè siamo tornati alla fine degli anni 70, quindi quello che si chiama in gergo tecnico il catching up, cioè quando si è indietro a acchiappare i primi della fila, noi da 20 anni a questa parte niente, abbiamo iniziato a retrocedere, e questo è un dato evidente. In qualunque modo poi misuriate la produttività, ci sono diverse maniere statistiche per misurarla, però quello che vi ho citato adesso è il dato del prodotto per ora lavorata, e su questo tutti d'accordo. Da che cosa dipenda? In realtà non sono d'accordo per niente, e se non si trova un accordo su quali siano i fattori che spiegano la bassa produttività italiana, come evidente è molto più complicato riacchiappare i primi della fila, cioè tornare a farla salire la produttività. Ecco, allora, l'autore di questo studio che ho letto due settimane fa ha il merito, secondo me, in poche decine di pagine di non solo trattare i dati da professionista, perché insegna all'università, ma di individuare spiegare in sintesi alcune delle spiegazioni più correntemente di riferimento intorno al motivo della bassa produttività italiana da 20 anni a questa parte, di affrontare analiticamente la fondatezza di ciascuna di queste tre maggiori tesi e poi di dire: secondo me nessuna di queste tre c'entra davvero il problema, probabilmente ci sono degli altri fattori da tenere in considerazione. Ecco, l'autore di questo studio, che se lo volete leggere integralmente trovate, se andate sul sito dell'Università Carlo Cattaneo, la LIUC, trovate i LIUC Papers, tra le pubblicazioni dell'università, ed è l'ultimo, è il papers che appartiene alla collana Economia e Impresa numero 76, è stato pubblicato online proprio poche settimane fa, e il titolo è appunto L'economia italiana e il paradosso della produttività. L'autore è con noi, lo ringrazio di essere al telefono, è il professor Giuseppe Schlitzer. Buon pomeriggio, professore. Salve. Grazie per questa opportunità. Allora, iniziamo a ricapitolare sinteticamente le tre spiegazioni di fondo per cui la produttività italiana da 20 anni non regge il paragone con quello degli altri paesi. Da quale vogliamo cominciare? Ma non saprei, diciamo le tesi sono fondamentalmente tre, cioè una tesi che chiamerei ortodossa, che fa riferimento essenzialmente a presunti limiti del modello italiano di sviluppo, cioè il fatto che le nostre imprese siano piccole, specializzate in settori tradizionali, a proprietà familiare, e la tesi è: questo modello di sviluppo si è trovato spiazzato di fronte alla globalizzazione e alla rivoluzione delle tecnologie digitali. E questa è una prima spiegazione portata avanti soprattutto dagli organismi internazionali e alcuni economisti della Banca d'Italia. Una seconda spiegazione invece fa riferimento alle riforme del mercato del lavoro partite nel 93, poi col pacchetto 3 o con la riforma Biagi, e sostiene che di fatto le imprese hanno sfruttato questa flessibilità aumentando l'impiego del fattore lavoro a scapito degli investimenti, e quindi hanno anche ridotto l'innovazione e automaticamente quindi la produttività è calata. Queste prime due tesi mettono chiaramente in discussione, mi pare, il ruolo, diciamo, soprattutto dell'industria, ecco, quindi è questo un po' diciamo poi il motivo per cui ho voluto guardare a questa letteratura. E di fatto la tesi più benigna, che è la terza tesi, è quella che fa riferimento all'euro, cioè all'entrata nell'euro dell'Italia con un cambio fisso che è stato un po' penalizzante per noi e che quindi ha ridotto la crescita e, secondo questa tesi, anche la produttività. Questa terza tesi di fatto sarebbe quella poi più favorevole alle imprese e all'industria, perché dice le cause della minore produttività, del ristagno, è l'euro, e quindi è una causa esterna. È l'euro che ha prodotto pressoché automaticamente, privandoci dello sfogo della svalutazione monetaria, una contrazione della domanda, e quindi anche la produttività si adegua. Ecco. Queste sono le tre tesi di fondo, io diciamo le ho esaminate facendo dei ragionamenti, spero, di buon senso. Non ho utilizzato econometria né modelli matematici, e quindi questo agli occhi di alcuni suoi colleghi sarà sicuramente una gravissima lacuna. È un punto debole sicuramente di questo, ma io del resto sono un economista votato all'industria, perché per la cronaca dirigo un'associazione industriale che è quella dei cementieri, dove in realtà c'è molta più innovazione di quello che si creda. E quindi ho guardato a queste tre tesi, ho esaminato punti di forza e di debolezza, ognuna offre elementi utili alla spiegazione del fenomeno, però nessuna, a mio giudizio, convince pienamente. Perché nessuna convince pienamente? Innanzitutto l'export è stata la componente più attiva della domanda sicuramente in questi ultimi 10 anni, e quindi né l'euro né diciamo la globalizzazione possono essere considerate delle cause, diciamo, di questo calo della produttività. Il dinamismo dell'industria in realtà si è accresciuto proprio perché sono aumentati i vincoli esterni, l'euro, la competizione globale. Questi sono fattori che hanno aumentato la produttività, oltre che la qualità dei prodotti. Naturalmente si può dire che proprio perché l'attrazione della domanda estera è stata la componente più dinamica anche a fronte della contrazione invece della domanda domestica e del prodotto italiano, questa maggior produttività riguarda le, diciamo, 190.000-200.000 imprese che stanno nelle file dell'export, mentre non avviene sul più dell'offerta di servizi sul mercato domestico, non altrettanto esposto al morso della concorrenza come chi esporta, è al settore pubblico. Quindi anche questa è una tesi che da una parte dice, ma dall'altra non dice. Esattamente, quindi ma basta guardare, diciamo, i grafici e si vede che l'andamento della produttività in questi 20 anni ha fatto molto peggio nei settori dei servizi, nei settori meno esposti alla concorrenza, che non l'industria. Quindi la tesi dell'euro e la tesi della globalizzazione non regge, perché non che il manifatturiero abbia avuto chissà quale performance brillante, ma ha fatto meglio sicuramente di quanto non abbiano fatto i servizi, basta, e le costruzioni, devo aggiungere, preciso che il cemento fa parte del manifatturiero e non delle costruzioni, però se si guarda costruzioni ai servizi, l'andamento della produttività in questi settori lungo i 20 anni è stato molto peggiore dell'andamento della produttività nel manifatturiero e nell'industria. Quindi questa tesi dell'euro, della globalizzazione, non regge. La tesi che guarda alla flessibilità del mercato del lavoro ha dei punti di forza, sicuramente l'input lavoro è molto cresciuto, le imprese hanno sfruttato moltissimo questa flessibilità, l'hanno sfruttata molto anche durante questa crisi, bisogna dire. Ma proprio questo, diciamo, smentisce un po' questa tesi, perché allora dovremmo osservare proprio nel corso di questa recessione una ripresa molto forte della produttività, che invece non si osserva nei dati, perché le imprese, proprio sfruttando questa flessibilità dei contratti a tempo. L'hanno utilizzata durante la recessione, dovremmo osservare quindi un aumento della produttività che invece non si vede, mentre invece si vede in Spagna, dove però la percentuale dei contratti a termine è molto più elevata, arriva al 30%, noi siamo al 14%, quindi diciamo questa riforma del mercato del lavoro, pur importante, non ha radicalmente cambiato poi i numeri nell'aggregato. Ecco, quindi queste sono un po' alcune delle tesi che porto avanti. L'ultimo punto è forse quello dell'economia digitale. Ecco, che è il cuore insomma della tesi, quella ortodossa come l'ha chiamata lei, cioè quella che accomuna il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, economisti come Alesina, Zingales, che dicono in buona sostanza l'impresa italiana, un po' perché c'è una percentuale di proprietari familiari che vogliono fare i manager e hanno la testa rivolta al passato, un po' perché è sottocapitalizzata, un po' perché proprio non concepisce l'orizzontalità e la verticalità della rivoluzione ICT sulle catene clienti, fornitori, abbattimento degli ostacoli tradizionali per la proiezione commerciale anche a decine di migliaia di chilometri, eccetera, eccetera. Per tutto questo ha un tasso di investimenti in tecnologie digitali della comunicazione che è molto più basso, non ha capito la rivoluzione tecnologica, non la fa e quindi resta indietro. Questa tesi in che cosa è sbagliata, secondo me? Ma dunque, il ritardo c'è ed è documentato, però non è pensabile che diciamo questo ritardo possa giustificare un appiattimento della curva della durata di 20 anni. Anche perché lei c'ha una tabella nel suo studio che io ho fatto già vedere in giro a un po' di amici che dicevano sempre: ma vedi il gap degli investimenti digitali? Lei c'ha una tabella nel quale dice: in realtà, se andiamo a vedere il più del ritardo negli investimenti in ICT sul PIL, beh, noi lo stiamo colmando, non è che si sta approfondendo. Ma il ritardo ormai è in gran parte colmato, perché guardiamo la banda larga ormai copre, ma copriva già prima della crisi, il 99% delle abitazioni, poi copre di meno rispetto agli altri paesi in termini di popolazione, però diciamo ormai il ritardo è in gran parte colmato. Allora perché non vediamo un aumento della produttività? Qui sta il paradosso della produttività sta nel fatto che, per quanto in ritardo il processo di riforma, l'ingresso della rivoluzione digitale, l'effetto della globalizzazione, tutte queste cose dovrebbero aver tirato su la produttività. Perché non lo vediamo? qui sta il paradosso. E la risposta è: evidentemente ci sono state altre cose che hanno agito in senso negativo. Allora, su quali siano queste altre cose, adesso noi ci diamo 60 secondi di pausa con l'informazione stradale. Abbiamo due ascoltatori che hanno telefonato e rapidamente li sentiamo e andiamo a vedere Giuseppe Schlitter che cosa ci propone che siano invece gli altri fattori, oltre a queste tre letture tradizionali che, come abbiamo visto, però non ci danno una buona risposta ai 20 anni di bassa produttività italiana, addirittura col segno negativo negli anni della crisi. Torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:48 primi. Domanda: che cosa determina la bassa produttività italiana degli ultimi 20 anni, testimoniata nelle comparazioni internazionali? Abbiamo visto tre spiegazioni ortodosse: una, l'euro, i cambi fissi; la seconda, le riforme del lavoro, quindi contratti a termine; la terza, quella ortodossa, ci sono pochi investimenti in ICT. In realtà nessuna delle tre dà una spiegazione compiuta e ragionevole. Vediamo quali altri fattori, ma prima sentiamo rapidamente come la pensate voi. Aldo da Brescia, la tua risposta? Sì, buonasera. Io faccio il commercialista aziendalista, quindi ho seguito le aziende dei vari anni, dal 97 dall'inizio della professione a 27 anni. Quello che ho visto io, il cambiamento principale, il fattore che ha inciso molto di più è diciamo il fattore fiscale. Un applauso da parte mia. Io penso come te, questo secondo me è uno dei fattori di contesto che spiegano la bassa produttività italiana, però questa è la mia opinione. Tu la pensi così? È una banalità, però l'imprenditore di base deve avere il 30% degli utili che fa, li deve investire. Il 30% sostiene diciamo il fabbisogno dell'imprenditore e l'altro 30% paga le imposte. E qui invece le percentuali sono leggermente diverse. Per cui io ho calcolato un 75%. Esatto, Aldo. Sull'Istituto Bruno Leone adesso stiamo pubblicheremo la prossima settimana una comparazione sulla pressione fiscale totale per tipo di imprenditore, attività individuale, artigiani o in società di capitali, fino a €1 milione. Nell'ordinamento italiano, in quello tedesco e in quello americano. Poi ci farò una puntata e c'è da piangere facendo questo paragone. Quindi la tesi di Aldo è il fisco. Giuseppe da Milano, la sua idea? Ciao Oscar, io lavoro nell'industria aerospaziale, ho girato un po' dappertutto e avevo alcuni punti. In primo luogo, rispetto alle aziende estere, c'è la carenza di pianificazione e organizzazione, cioè nelle aziende italiane si passa da un'urgenza a un'altra urgenza, non si può mai pianificare niente. Appiattimento salariale, e parlo di... Quindi significa poca managerialità, per essere chiaro. Qui selezione negativa della classe dirigente, sì, ma questa è tutta un'altra puntata, diciamo. Appiattimento salariale, e parlo di dipendenti, che questo li mortifica, perché c'è gente di esperienza che non vede un aumento da 15 anni. Questo cosa vuol dire? Perché la gente non è incentivata? Quindi poco salario di merito e incentivo al risultato. In più, concordo, arretratezza nei sistemi informativi. Io, per avere un computer funzionante in una primaria azienda aerospaziale, ho impiegato 2 settimane. Ti vorrei far vedere con quali sistemi lavoriamo qua nell'editoriale solo 24 ore, ma questo è meglio che mi taccio, perché se no mi levano la linea. Il tecnico dall'altra parte del vetro sta sorridendo, perché attualmente loro ci devono fare i conti ancora peggio di noi. Paolo da Firenze, come la pensa Paolo invece? Sì, ciao, buonasera Oscar. Io poserei invece le prime due tesi che avete elencato. Quindi l'euro? No, perché l'euro proprio le botteghe, perché non si può parlare di industria veramente. Quindi la classe dimensionale è troppo minuta e quindi bassa capitalizzazione. Io vivo in Toscana, sì, e sono botteghe, dai, non sono aziende, ce ne sono poche. Allora, Paolo, guarda, lunedì l'associazione industriale Monza Brianza, quindi insomma una delle aree più industrializzate d'Italia, presenta una bellissima ricerca fatta da Lambrosetti, sono 200 pagine di approfondimento, e la cosa che mi lasciò senza parole è che oltre il 90% delle imprese più resilienti di quell'area, molto manifatturiera, sono piccole e piccolissime, e di fronte a quei dati uno dice cacchio, cioè significa imprese manifatturiere che riescono a esportare eccetera avendo meno di 10 milioni di euro di fatturato. E insomma c'è da discutere anche su questo, però questi sono i fattori che indicano alcuni dei nostri ascoltatori. Torniamo a Giuseppe Schlitter, i fattori di contesto diversi da quelli delle tre tesi che secondo lei pesano di più in questi 20 anni di bassa produttività quali sono? C'è il fisco? Dunque, io offro quattro spunti che secondo me appunto gli economisti accademici e i centri studi dovrebbero approfondire. E il primo, sì, riguarda appunto il processo di consolidamento fiscale, esatto, e il modo in cui è stato condotto. Cioè, non è tanto il fatto del perseguimento, diciamo, del pareggio di bilancio, ma il modo in cui è stato condotto in Italia, dove abbiamo ridotto poco le spese. Cottarelli ci dice a partire solo dal 2010 e abbiamo aumentato molto la pressione fiscale. Quindi qui una delle possibili spiegazioni è il forte drenaggio di risorse che c'è stato, diciamo, dal settore privato, che presumibilmente è più produttivo, al settore pubblico. Questo in un contesto in cui negli altri paesi la tassazione, la pressione fiscale si è ridotta. Certo. Quindi poco da fare. Esattamente, i dati dicono quello, e abbiamo ridotto moltissimo, quando si è andato a tagliare sul fronte delle spese, quel poco che si è fatto, abbiamo tagliato molto gli investimenti. Meno 27%, ecco, quelli pubblici. Secondo fattore. Il secondo suggerimento è: guardiamo meglio a questa composizione del PIL tra industria e servizi, dove i servizi pesano sempre di più. L'industria indubbiamente ha anche sofferto, quindi si è ridotta come peso. I servizi comunque pesano di più e sono a produttività e a dinamica della produttività bassa, e forniscono servizi all'industria. Quindi se io, diciamo, ho una bassa produttività nei servizi, trasferisco incorpora anche all'industria, ho un'esternalità sull'industria. Questo significa più concorrenza nell'offerta di servizi sul mercato domestico. Questa è la cosa su cui poi a parole tutti d'accordo, quando si tratta di farla tutti insorgono per difendere le proprie nicchie. Terzo spunto aggiuntivo. È un fattore demografico, dunque noi abbiamo fatto, ed era inevitabile, una riforma pensionistica, perché abbiamo una demografia particolare che ci avvicina molto di più al Giappone che non ad alcuni paesi europei. Nel fare questa riforma pensionistica, noi gradualmente nel corso del tempo abbiamo aumentato l'età media delle persone sul luogo di lavoro, e quindi qui va approfondito qual è il potenziale effetto sulla produttività. Teniamo conto che le indagini alle imprese dopo Jobs Act e la decontribuzione dicono che vogliono assumere, come si vede anche nei primi risultati, quelli già dotati di skills, cioè gli over 55, non i giovani. Questo potrebbe avere implicazioni sulla produttività modesta aggiuntiva di questi nuovi occupati. Il quarto fattore infine che indica il quarto fattore è un fattore, diciamo, di contesto, ma soprattutto focalizzato sul ruolo della pubblica amministrazione e su quello che è successo in questi anni con la devolution all'italiana. Un disastro. Da uomo che lavora per l'industria, a mio giudizio, ha cambiato completamente, esatto, il quadro per l'impresa, dove oggi, a mio giudizio, non ha senso parlare di politica industriale a livello nazionale. Però la vita di un sito produttivo dipende da mille veti. Allora, questi fattori li sposo anch'io. Intanto, grazie al professor Schnitzer. Continuate con la 24 e domani dalle 10 alle 12. Non perdetevi i compiti della Belva!